Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Con il tempo le nostre case si sono riempite, lo sapete bene, di nuovi apparecchi che consumano energia e che tuttavia fanno ormai parte integrante di quello che si può definire un normale stile di vita, come per esempio la TV e il computer, che sono mezzi di informazione e anche di lavoro, insieme ad altri elettrodomestici indispensabili, prima fra tutte la lavatrice che ha liberato le donne dalla schiavitù del bucato. Tutti questi apparecchi però richiedono energia per funzionare, che è sempre più costosa. Aggiungete la crisi che ha colpito milioni di famiglie in Europa ed ecco che ci ritroviamo con un nuovo tipo di povertà per le mani, la povertà energetica. Il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti, tanto che il CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, sta per fare una raccomandazione ufficiale agli organi dell'UE affinché adotti delle strategie contro appunto la povertà energetica. Ne ho parlato con il relatore della proposta del CESE, Pierre-Jean Coulon, e il correlatore Bernardo Hernández Batallé, che ho incontrato venerdì scorso a Torino. Sentiamo com'è andata. Intanto le chiedo di spiegarci che cos'è la povertà energetica. Qu'est-ce que c'est la pauvreté énergétique? Alors, nous allons voir tout à l'heure que quello che manca in Europa credo sia proprio una unica, univoca definizione di povertà energetica. Ogni paese ha una definizione propria. Credo che essenzialmente corrisponda alla situazione in cui si trovano le persone che hanno difficoltà e che in molti casi non riescono più a pagare i loro consumi energetici, di cui però hanno bisogno. L'energia è una necessità per vivere e oggi appunto questi bisogni energetici in Europa stanno aumentando, ma aumenta anche il prezzo dell'energia, quindi la situazione diventa sempre più difficile, ma non solo per le famiglie, anche per le piccole e medie imprese. Pour les petites entreprises de payer l'énergie. Ad esempio il FESR può essere un fondo, il fondo di sviluppo regionale può intervenire in questo senso e avere un ruolo a livello europeo in tutti i paesi, oppure il fondo di sicurezza, il fondo sociale europeo, che può anch'esso intervenire. Quindi la solidarietà deve, di fronte a problemi globali, dare risposte globali. Global. Quante persone non possono pagare in Europa e in Italia l'energia? Ci sono delle cifre? C'est très large. On estime che si calcola che in Europa ci siano 60 milioni di europei che non sono in grado di pagare la loro bolletta elettrica, forse anche di più, 100 milioni. È stato calcolato, è stato visto che nel 2011 sono più di 3 milioni, nel 2012 scusate, sono più di 3 milioni le persone che, le famiglie a cui è stata tagliata la fornitura elettrica e del gas perché non hanno pagato le loro bollette. Quindi questo corrisponde almeno a 10 milioni di persone che non possono più avere il servizio elettrico o il gas. Tra l'altro, per esempio, non essere in grado di pagare il consumo di gas crea problemi dal punto di vista sanitario anche. E i problemi sanitari sono molto costosi poi da risolvere. Monsieur Batallé, quali sono i problemi che vengono fuori quando una famiglia non può pagare l'energia? Il problema della povertà energetica è un problema strettamente legato poi all'esclusione sociale, perché è il punto di partenza del deterioramento del quadro di vita. Poi ha come tappa successiva a volte l'esclusione dalla scuola, l'impossibilità di pagarsi l'affitto di casa, quindi è veramente il punto di partenza poi di un progressivo allontanamento della società ed è il motivo per cui noi ci siamo interessati a questo problema. Che cosa si può fare a questo punto per combattere la povertà energetica? Il n'y a pas une solution un périple magique. Non esiste una soluzione magica, credo. Abbiamo visto che c'è un tentativo di trovare diverse soluzioni in Europa e a livello di Stati membri. Quello che è importante è in primo luogo bloccare questo processo, e per questo la prima necessità è quella di conoscere a fondo il soggetto, la materia, per noi soprattutto poterci basare su delle statistiche europee che siano omogenee, quindi in modo da avere, poter avere gli stessi indicatori ovunque per definire il problema e poi trovare delle soluzioni che valgano per tutti. Questo anche perché, come ci veniva spiegato, la definizione anche di povertà energetica varia da paese a paese, quindi è difficile fare un ragionamento complessivo se non si hanno dei dati uniformi. A breve ci sarà una proposta. Quando avverrà, che cosa chiederete? Non solo domande alla Commissione, e aussi au Parlement européen, prepare des mesures législatives contraignantes. Appunto, noi abbiamo chiesto concretamente alla Commissione e al Parlamento che varino delle misure legislative vincolanti, quindi che non siano delle semplici raccomandazioni, ma delle vere e proprie direttive da applicare in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda poi delle soluzioni più concrete che si rivolgano direttamente ai cittadini, chiediamo che venga istituito un fondo di coesione che esprima appunto delle misure di solidarietà a livello territoriale, sociale, economico, che siano delle misure di aiuto ai proprietari, agli affittuari, quindi delle misure per far fronte alla necessità di ammodernare gli edifici, quindi le case, le abitazioni. Bene, ci fermiamo qui. Io ringrazio Gisella Spalla, che è l'interprete che avete sentito all'opera nell'intervista. Ricordo a tutti che ci potete contattare scrivendo a smartcity@radio24.it, ma mi trovate anche su Facebook col mio nome, Maurizio Melis. A voi tutti una buona serata. A domani.